quella che Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana. E chi è che mette la Radio Vaticana? Chi è? Pace bene, caro Natalino. Oh, ciao Gianfra. E allora, questa antenna è stata partorita. Aspetta Gianfra. C'è un po' di rumore sotto, sopra, in alto e in basso. Gianfra. Mi dica. Stavo guardando quell'RT 95. Quello lì il doppio ascolto ce l'ha. RT 95? Che cos'è? Della rete VIS. Non lo so, è davvero. Adesso te lo controllo e ti dico subito cosa c'ha e cosa non c'ha. C'è anche scritto doppia banda, mobile per auto 5 watt, 15 watt, 25 watt, 200 canali, capito? Mi hai? E se ha il volo costante, il doppio ascolto. Non ho capito, ti sento malissimo, sento la gente parlare sotto più forte di te, come al solito. E mia moglie? Un tenore, praticamente. Boh, visto così, per te mi sembra troppo complicato. Comunque, per quello che costa, c'è anche l'altro, l'altro che non c'ha neanche manopola, che costa anche di meno. E quale dicevi tu? Ma uno comunque anche quello va bene, non è che tutti vanno bene, no? Non lo so se è doppia banda, ma non credo a quel prezzo. Sarà un qua dice doppia banda, poi selezioni uno, selezioni l'altro. Va bene lo stesso. Che problema dà? Perché a me mi interessa col doppio ascolto, capito? Te ne fai il doppio ascolto, te li metti in memoria quelli che ti interessano, te li scansiona tutti, in V, in U, in A, in B. Ma io non voglio scansionare, io li voglio tenere fissi, io voglio tenere fisse due frequenze, in modo che se uno parla lo sento, e poi l'altra per non stare sempre scansionandomi. Vabbè, cosa le fa? C'è anche il dual, tu puoi mettere anche col dual voce, fa il suo lavoro, ma che cambia qualche cosa. È perché tu mi stavi dicendo a prenderne uno, ma hai detto il nome ma non me lo ricordo. Sì, ma a te non serve a trasmettere. Già il dual watch lo puoi fare anche con quel ricevitore che c'hai. Non ti credere che sia molto meglio di quel ricevitorino che hai? Io lo so. Infatti, ma ieri non c'era nessuno, Gianfra. Non ho sentito nessuno. Non lo so. Non ne ho idea. Sto facendo cosa e quindi non ho... Era un ascolto ma non mi ricordo neanche dove. È perché non ho sentito nessuno ieri sera, capito? È una protesta ufficiale. Sì, io devo ascoltare qualcuno. Se no cosa me la compro a fare la radio? Sì, vabbè, ma sapevo che erano da certe parti e poi non li sento più. Perché tutto per il momento, poi sale, scende. È così. E non c'era neanche nessuno qua. Tutta la sera annoiato ero. Ma da certe parti rompe, da certe parti rompe. Noi sbattiamo, eravamo in 40, eravamo in 20, eravamo in 10, eravamo in V, eravamo in U. Cioè, se uno non segue. Buonasera, è QRX per me, ciao. E tu sempre QRX, ciao Cla. che non segue. Non ho sentito nessuno, né qua né là. Ecco cos'è. Guarda che forse dice qualche frequenza sbagliata, perché noi siamo anche a 433-525 di nuovo HF Simplex, oltre a, a 525, R7 Alfa, R1, R0, siamo da tutte le parti natalie. Ma se vado più alle, non te lo devo segnare io cosa deve fare, non deve seguire. C'è il ricevitore andando, ce le ho tutte segnate, quindi sono tutte memorizzate. Ero tutta la sera annoiato, gira gira gira un pulduzzo, manca antenna via, tanti avanti la gabo e no, tanto visto e considerato che abbandonano tutto, anche qua non c'era nessuno ieri, nessuno. Alla fine non si stufa. Natalie, eravamo tutti in VHF e in UHF, tu sai bene che se io rimango qua in 27, entrano tutti, tutti. Non lo dico io, lo dicono le carte, perché io trascino, sono trascinatore. Se io mi sposto con Roberto, con Gianfranco, con quei poche persone che sono rimaste, no, non dico radioamatori, ma parliamo anche di radioamatori che fanno 27 e non entra nessuno, non c'è nessuno. Ma cosa pensi di fare? E ancora è nuda. La gente nel periodo fra un pochettino che ci spostiamo definitivamente. Vabbè, dai, io sto facendo cosa qua. Un saluto a tutti, circolare e rimango in QRX. Ciao ciao. E allora ho fatto male a comprarmi l'antenna. E l'altra non mi è arrivata, ma meglio che non arrivi. Adesso mi sacco tutto e basta. E così abbiamo finito. Vuol dire me ne andrò in giro. A pescare me ne andrò, al posto di stare qua. Ma sta, è una tua scelta, io ti dico le cose come stanno, ok? Io anni che non facevo HF, VHF, VHF, sto rimettendo tutto in ordine, infatti sto lavorando qua per quello, e sto spostando gli amplificatori, sto mettendo a porta eccetera, per organizzarmi per fare anche HF, no? E poi ci faccio più 27, eh? Come me e tanti altri, anche Roberto adesso si organizzerà, quindi mancherà anche lui, ma la sera chi c'era? Io, tu, Roberto e Giulio, e a volte Gianni, io, tu, Roberto e Giulio, e a volte Gianni, Caregheve e Gianfranco, spostate quelle poche persone, è chiaro che la cosa cambia, Natà, capite? E vabbè, vabbè. Correci per me, dai, definitivo, non entro più, ciao a tutti. Aspetta Natalie, ma dove vai? Ma dove vai? Lo sai che a giorni Claudio fa scappare la gente. Stai qua. No, no, Gianfranco, questo non lo accetto. E l'hai sconfortato, dai, Claudio, un po' d'ottimismo. No, ma non lo accetto, io faccio scappare la gente. Semmai al contrario, non faccio scappare mai qui. Già da tanto tempo. Però sono voluto rientrare. Però questo non lo accetto da te, io non faccio scappare nessuno, io dico le cose come stanno. Perché la realtà, se non entro io, non entri tu, non entra Roberto, non entra Giulio, in radio non c'è nessuno, punto e basta. Vabbè, non lo prendere come un'offesa, no. Non era solo un modo di dire. Che così. Chi vuole ascoltare ascolta, cioè rispetto anche a prima c'è più gente, e poi tanta gente che non ho mai sentito, che non sapevo neanche che ci fosse, sta entrando, quindi è così, non è detto che ci debba essere tutti i giorni puntuale come un orologio. Non lo so, fate voi, io non mi voglio mettere più in mezzo ai cazzi di nessuno, quello che sto facendo cosa, ciao. Non ho caso di prendersela. No, vabbè. Natalie non ci sei ancora. No, non me la sto prendendo, sto facendo cosa, ti ho detto, poi devo fare delle prove anche sui ponti, perché ho spostato l'antenna, quindi accettiamo l'otto, no, non c'è problema, io sono anche qua, però la realtà è quella, se non entro sempre le stesse persone, in radio non c'è mai nessuno, tutto qui, non è che sono balle, è la realtà, sono i fatti, non lo dico io, lo dico anche altre persone, capito? Vabbè, Natalino, hai spento tutto? È scappato. E cosa vuoi che ti dica? Roberto non l'hai sentito? No, ho capito. Cioè, Roberto l'hai sentito? Ma no, ha altro da fare, per cui lui non ci fa le 6. È vero, sono le 17.40, vai Roberto, con le 3, qua. Fammi terminare qua, già fra, li accendiamo tra un attimino, se no ci sentiamo magari a 5.25 o sulle ore 7, sto facendo cose, ciao. Ok, ciao ciao. C'hai la sfera magica, la sfera di cristallo come Marco, che è riuscita a riconoscere se ci sono i tuni o no. Aspetta, quando lascio la KF che stavo ascoltando una stazione strana. Niente, tutto bene, sì? Sì, diciamo, quello che va bene, quello che va male ce lo teniamo. Secondo me ti ha messo una telecamera a casa tua. È probabile, questo vale per tutti, comunque, quando va male o bene, come si diceva, sono come le cambiane, no? Ce la se tiene. Che era avanti, chi era? Ciao. Ciao Gianfranco, ciao Roberto, Franco da Sosso. E cosa hai fatto Fran? Sei molto più forte del radio. Ehi, cavolo, se parte sul radio si è processo il microfono. Non te l'avevo riconosciuto, infatti ho detto, chi è questo qua? La voce è un problema, ho detto, sì, però mi sembra troppo forte. Arriva 9:15 qua, la radio bella potente. Ecco, sempre solita radio e solito microfono. Non ho cambiato niente, boh, forse l'ha già andato. Ma quanto lo tiene per curiosità le mie cose, il Mickey Game? Ah, oh, Mickey Game, ma sì, siamo sotto la C. Sto uscendo 20 watt, dai. Ah, non sto parlando di segnale, il segnale vabbè più o meno era così. La radio, la potenza della radio si dice. La potenza ce l'ho sulla sotto la C, dai. Non è molto alta. Fortissima, complimenti. Ok, io non so se sta uscendo uguale, non tocco mai niente, il microfono è sotto l'1, la potenza saranno una decina, non di più. No, non è che io tocco mai niente, è sempre così, non modifico mai niente, visto una volta che c'è bene, non me ne frega più niente di modificare, intanto alla fine poi la rovina la radio. Ok, avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera Franco, ben ascoltato. Com'è lì il tempo a Sorso? Sta migliorando o peggiorando? No, poco fa sono uscito e sembrava bello, sembrava. c'è freddino, però la nota è buona. Ah, bene. Speriamo che migliori, perché adesso l'acqua c'è un po' inumidito. Riprendi, Robert, quindi sempre il solito fantasma, da tutto lavoro, chiesa, lavoro, lavoro casa. Sì, sì, comunque oggi c'è stato un po' di tregua, domani ne c'è un bel di acqua, tutto il giorno piove. Sempre belle notizie. Io sto anche aspettando come la parabola, che le devo cambiare il palo oramai, perché non c'è verso. Non c'è verso, quindi da bucare di nuovo, però questa volta ci metto un palo largo mezzo metro, voglio vedere se si muove. Ci metti un palo della luce di quelli a scalare, a prismatici, che sono la mia razzingata, che quelli non cadono mai, non li pieghi. C'è loro, paradossalmente c'è uno, ma non me lo hanno dato l'energia. Ce n'è uno bello lì, un angolino, ideale, perché mi sembra messo a posta per me, e invece niente. E tu, Franco, che antenna e che palo c'hai? Ah, io ci ho messo un tubo innocente da 6 metri, ci ho messo, la mano da turbo sopra. Ma un tubo unico l'hai fatto a scalare? No, tubo unico. Allora devi scendere, quindi devi fare tutto intero insieme. Sì, come gli ho fatto le gaffe, le ho fatte di quelle dei morsetti dei tubi innocenti, lo stesso le ho fatti. Allora il tubo unico, lei scende giusto fino in fondo e mi arriva sino al petto. Ah, così, ma tiranti ci hai messo? Sì, 3 tiranti ci ho messo. Ah, ok. E se no quest'ora sarebbe stata la marina al mare, era stata la mia antenna. Ma tu, se lo vuoi dire, sei dalla zona, parliamo del mercato, o dall'altra parte di Sorso? No, sono attaccata a pochi metri da Sembri. No, ho capito. È la zona più alta, là, di Sorso. E per quello che arrivi bello forte, tu? Tutto libero, c'ho dei sassari più o meno arrivo bene dappertutto, là, quasi, però diciamo che tra sassari, ultimo, arrivo benissimo lo stesso, perché c'ho qualche punto coperto, però non molto. Ursilo ce l'hai di fronte, lo dovresti vedere, o sbaglio? Ursilo devo cavalcare la montagnetta di Signori per arrivarci, però arrivo lo stesso. Sì, scusa, già fra il monopolio, e Alghero, si è aperto? Diciamo Alghero, sì, ho sento se c'è giornate belle, ci arrivo benissimo. Se c'è appena di giornate tipo Correme, queste cose qua, non sento più a nessuno. Ehi, vai già fra, te il mic. Sì, non ci provavo, tanto lo sai, no? Io sono qua, sono là, sono giù, sono sotto, sono sempre aperto. Stavo provando una cosa interessante, vabbè. Sì, Franco, è un po' faticosa però quella salita dove sei, per andare a Sennori, poi Sennori è ancora più faticosa perché è più pendenza, una o due volte me la sono fatta in bici. Ehi, cappa. Vabbè, io non so quale strada stai dicendo tu, dalla mia parte dove sono io è un po' faticosa se devi andare in bici, dall'altra un po' meno, dalla parte del consorzio è un po' meno. Io abito all'altra parte, quella via che hanno fatto via Sardegna, là. E dove c'è la stazione, credo? No, devi andare molto più avanti, quasi al centro, poi girare, andare verso su, dove c'era, non so se c'è dove la casa di Mavricchia dei Carabinieri. Sì, non me la ricordo molto chiaramente. Insomma, me le sono fatte tutte, dai, anche perché ci abita un collega dall'altro lato. Io facevo quella dove c'era, che va dalla piazza verso Signori, passata da quella lì, e quella inizia già a essere in salita, e la più faticosa anche quella di San Giovanni che va a Signori, e così, ma speriamo che il tempo migliori si possa fare qualche cosa di interessante anche lì. Aspetta che sono, ho toccato a fare per non disturbare, ecco qua. E niente, è una zona bella, esposta al mare, si vede anche tutto il mare sul golfo. Molto bella, riprendi Roberto. Tu stai parlando di stanchezza, l'altro giorno è venuto un amico mio che era un po' che non lo vedevo, che lavora vicino a me. Ma sei tu che fine fa? E ho fatto il cammino di Santiago, e non sai come questo cammino di Santiago, 800 km a piedi. Ma tu sei tutto macro, ho fatto quanto ci sei stato a fare? Un mese, a te ne fai 800 km a piedi. 800 km a piedi, per carità. È tipo un vuoto che si fa, tipo il massimo che ho sentito salsa di Porto Torres quando c'è il periodo di San Gavino eccetera. Cacchio, ma conosce la gente che ci va, dice era pieno di gente da tutta Italia e anche da altre parti fuori dall'Italia. 800 km, fate quanti chilometri facevi in media? 20, 30 al giorno. Dice, chiesta, la gara a me, avete quanti paia di scarpe hai consumato? Poi dice, ti ospitano nei paesi, perché c'è tutto questo percorso, per dire, facciamo l'esempio, vado a Sorso e ci sono delle famiglie e ti danno a dormire a poco prezzo, poi dopo Sorso trovi Balisi, ti si fermano di lì, ti danno anche da mangiare con 10 euro e ti danno da mangiare la cosa, tipo è una specie di vuoto. Ecco, no, non l'avrei fatto. Registrato un attimo. Al massimo non avrei fatto 6 km ogni giorno, però di più no, e già sono tanti nei quali 6 km. Aspetta che c'è stato, credo, Claudio di Muros. Avanti Claudio. Allora, di portante sei 9 più 10, con i picchi arriva 9 più 15, radio 5 però non è molto alta. Chiediamo conferma a quelli più lontani, iniziamo da Sorso, se ti ha ascoltato, e poi Gianfranco. Avanti Franco. No, se Claudio di Muros io non lo ascolto per niente, non è neanche segnale qua c'ha Claudio. Niente, per me segnale 0, radio 0. Avanti Gianfranco. Sì, sì Claudio, buonasera, ben ascoltato. Segnale 7, la radio è 3.5-4 perché sento una specie di fruscio sotto, non è molto, molto forte in effetti. E rimane, se non c'è problema non ti preoccupare. Ok, considerando che sta uscendo contro le basse, stai andando alla grande, c'è quasi il segnale, un peluzzino un po' più alto di te Franco, ci avete quasi lo stesso segnale. Ok, saluta tutti in casa, quando voi siamo qua, avanti, di nuovo già affrontate il mic. Sì, ok Claudio, va bene. Buona serata allora, buona guarigione. E niente. Il micro a Franco, dai. Capo, io lo saluto a Claudio, ma intanto non so se neanche mi sente. Se non mi ha sentito me lo salutate voi, dai. Vai a Franco, se ti do il saluto e auguri per la pronta guarigione. Claudio, allora Franco da Muros ti ascoltano Santiago Otto Radio 5. Ma io non arrivo, cosa mi ha messo il radio? C'ha un vecchio Compsat, mi sembrano così, ho capito, sta uscendo con 3 watt, probabilmente non è molto favorevole per la tua zona, lui c'ha tutta la collina, è un pochettino critica la situazione, magari se attacca riesce a farsi sentire, non fa tanto bene, mi ha detto, infatti gli facciamo gli auguri tutti e tre, così si riprende subito, non ha voglia, rimane in quel rix, così fa ascolto. Vai già, francate il mic. Scusa Roberto, mi hanno distratto, mi ha chiamato. No, no, ha salutato Claudio e basta, dice non sta tanto bene e basta, ha salutato, ha detto ti passa Gianfranco per i saluti. Sì, sì, l'avevo già salutato. Niente. Riprendi fra. Ecco. Vuol dire che sta male allora, se ha letto. Tempo di influenze. Ma non c'è nessuno nelle altre bande, Gianfra, sono accese ma non sento nessuno. Boh, sono in ascolto sulle veste alfa. No, io sono in onde corte, sto facendo il mio lavoro, sempre. Ah no, pensavo sui monitor, canali monitor sono tutti e due liberi, almeno io non sento nessuno, poi non ho neanche chiamato comunque. Attenta, rimaniamo qua, va benissimo, a me piace tanto anche la 27, non la rinnegherò mai. Fai bene. Ti volevo dire. Voi fate un po' con la foretta, con la scatoletta, o meglio con quelle scatolette. No, guarda, sinceramente non ho fatto niente. Domani sicuramente mi divertirò, metterò anche un'antenna, provo a collegarci un'antenna esterna, vediamo un pochettino. Ma voglio togliermi il gusto sulle broccate, voglio capire delle cose che non mi sono molto chiare a livello di segnali. Adesso non me lo ricordo se te l'ho un'altra all'altra, perché vabbè io sto provando una cosa diversa, però ho sentito qualcosa di Montalvaro, no? Per il DAB, e già arriva bene, si sente anche molto bene, e hanno aumentato qualche stazione, c'è qualche stazione in più, visto. Ma addirittura, se proprio oggi ho letto un'informazione nuova, c'è una radio americana che fa parte del circuito DAB nazionale italiana, è di un italiano che vive a Miami, e l'ha portato in Italia questo, non mi ricordo come si chiama, radio, un nome inglese, adesso non mi viene, e si è inserito nel circuito DAB nazionale. Io sono da qualche mese che non l'ascolto più, perché un periodo c'era anche interrotta, l'ascoltavo qua con l'antennina sua in dotazione, non è fortissimo il segnale dentro casa, per cui devi sollevare l'antenna, con l'antenna chiusa non ce la fai a riceverlo, però con l'antenna esterna non ci dovrebbero essere problemi. Domani faccio le prove con quella specie di chiavetta, vediamo un pochettino cosa si dice. Sì, sì, ti hai presente che c'è la... c'è il programma, però non so, non mi ricordo se te l'ho messo, quel programma per l'ascolto di quella radio lì, si fa la scansione e poi te la fa ascoltare, lì non è che faccia grandi cose, e ti dà anche, credo, i livelli di segnale, la frequenza la sai tanto, intorno ai 200 mega giù di lì, ma comunque lui la scansione se la fa da solo, ma utilizzando la chiavetta naturalmente. Sì, certo, utilizzando la chiavetta. Il mio, quello che ho preso, il nuovo, se lo fa da solo, questo lavoro non c'è bisogno di dirglielo, e quindi ce l'ha già incorporato senza altri programmi, per quello come il tuo c'è il coso, c'è. Però ripeto, non mi ricordo se ci avevo messo tutto lì, sicuramente da Franco ad esempio dovrebbe arrivare a bomba, lui forse riceve qualcosa, anche anzi sicuramente riceve qualcosa da Francia. Hai provato tu Franco queste radio DAB con le digitali? No, negativo, non ho provato con niente. Sì, io per esempio la Francia, cosa vuol dire, sono favorevole tipo per la Corsica e via, e quelli arrivano benissimo da quelle zone lì qua. Sì, qualcuno la ricevo anche io, tre le ricevo benissimo, dai, bene, non benissimo, purtroppo c'è troppa radiofrequenza qua, perché non ho molto il segnale, però quella del 93, Nostalgia, quella 97.6, Corsa FM, quella Skyrock a 98.1, le ricevo, le altre è un po' difficoltoso, un ricevitore è quello professionale, con l'ICR7000 devo mettere attenuatori per cercare di tirarle fuori, ma quasi niente, non ce la fa l'ICR7000. No, ma l'ICR 7000 come la tira fuori? Cioè hai già un programma allora? No, io sto parlando le analogiche, non il DAB. Il DAB niente, no. Io il DAB c'ho un ricevitorino piccolino, niente di importante, però c'ho un bel display e ti appare anche il logo della stazione a colori, il titolo della canzone che c'è e quelli successivi. Ti fa tipo un televideo, dai, una cosettina così carino. Niente di importante, però ce l'ho già un 3-4 anni, da quando sono uscito le ho comprate, però niente di importante. Sì, aspetta un attimo, mi sto... Ah, ecco, sì. Allora, il programma è well.io, e infatti c'è una... avviato, c'è ancora la memorizzazione. Ci sono tantissime radio, quindi c'è su Basio, Radio Vaticana, ovviamente, RTL, no RTL, RTL, che non so cosa sia, poi la solita Rai, quella che dici tu, ah c'è la BBC ovviamente, vabbè, c'è questa ZDAB, e poi le altre sono le solite, ce n'è, non ho capito perché così tante, di RTL 102.5, di quella ne ha 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 addirittura. Sì, ci sono gli argomenti, poi c'è RTL Holder, RTL Napoli, pure Naples, il napoletano, poi c'è RTL Rock, ce ne sono 7-8, adesso mi ricordo quante. C'è la BBC, c'è anche qualche canale francese, nazionale, TFRF1 mi sembra che ci sia, non è che siamo molto aggiornato, solo quello che mi ricordo a memoria, poi c'è Radio Subasio che non è tutto quasi nazionale perché copre tutta la penisola, è una forse la più importante radio privata a parte i network nazionali di quelle RDS eccetera, è la più importante di tutti, Radio Subasio di Perugia, è all'avanguardia. E poi che c'è, adesso stanno entrando anche Radiolina, Radio Sintoni, Radio Radicale, non so se ci sia ancora, però dovrebbe entrare, poi c'è Coso, Radio Sportiva, in Dabo ce ne sono tantissime. E poi Radio Z è la musica italiana, poi chi c'era, adesso sto andando a memoria, non riesco a ricordare, Radio Vaticana, vabbè, l'hai già detto tu, interessante la BBC perché non l'ascolti in FM normalmente, neanche in analogico, la devi ascoltare solo via satellite o via onde corte. Sì, riprendi Franco. Ecco, quelle sono perché Radio Vaticano lo prendi anche con la Sì, sì, aspetta, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti che sennò ho messo qualche portantina quando stavi parlando tu, Franco. Avanti che vuole entrare, eh? Cioè, il QRM è quasi a 9, oggi è allucinante. Avanti a chi tocca, vai Gianfranco. No, da me è abbastanza tranquillo. Evidentemente la sera magari qualcuno accende qualche pompa di calore che c'è qualche condensatore, quello del motore magari mezzo andato e quindi crea disturbi, e poi ne mancassero apparecchi che creano interferenze, guarda. Io guarda, non ho fatto la prova, mi voglio togliere il gusto di alimentare la radio a 12 volt però dalla batteria, voglio togliere il dubbio perché qua in casa non ho niente che disturba, ho pensato che fosse la wifi, siccome c'ho molto vicino agli apparati, non c'entra niente, l'ho spenta, ho cambiato tante posizioni, niente, non c'è più giorni, il QRM, il minimo che arriva è a 5, parlo col 44, con 9,40 molto di meno. Era pensabile il tetra, è molto vicino, quello è un po' così, dai, quello lavora tra i 390 e 400 dovrebbe essere. Guarda, io non lo so, io noto una cosa, siccome sono molto vicino a queste cose aree militari, quando passo in macchina un pezzettino della salita, tu devi vedere l'attenuazione dei segnali, la RAI addirittura, l'88.4 di RAI 1, viene attenuato in un modo aspetta, proprio si sente il disturbo, quando passi dalla salita dalla Gonzaga, dalla salita dietro via Femmina, la parola via Femmina, non so come si chiama, mi sembra via Murgia, non lo so come si chiama. Sta di fatto che quando parli in quella strada lì c'è un'attenuazione totale di tutti i segnali bloccati, proprio una cosa allucinante. Sarà il tetra che arriva a fondo scala lì. Sì, dove sei vicino alla Gorgaga? Cos'è che fa, scusa, mi sono fermato un attimo. Ho detto dove sei vicino alla Gorgaga? Più o meno di lì, dai, non diciamo in particolare, ma come zona è quella? Vabbè, più o meno. Ma lì allora c'hanno la Gorgaga, dovrebbe avere un'antenna anche, dovrebbe avere di queste cose, le radio. Ma non c'è solo la Gorgaga, ci sono anche i vigili del fuoco, lì è pieno di cose, ci sono tante cose collegate e non si capisce esattamente cosa sia, perché possono essere anche i vigili del fuoco, però è più probabile secondo me che sia roba militare che sta disturbando con segnali molto, molto alti, perché passi da tutte le ore del giorno, della notte, e c'è un'attenuazione micidiale. E poi c'è un pezzettino dove c'è l'INPS, salendo di lì dove c'è l'ippodromo, lo stesso è un'attenuazione fortissima. Perché lì ci sono i carabinieri. Ma non è qualche segnale monitor fisso, no, non parlo della testa dei carabinieri, prima dei carabinieri, dove c'è l'ippodromo, proprio la salita dell'INPS, quel pezzettino lì. Di lì c'è un'attenuazione grossa. Basta che alzi gli occhi, di lì c'è quel grattacielo, guarda cosa c'è sopra. Non l'ho mai notato, cosa c'è sopra? Antenne? Sopra di lì, in quel palazzo proprio, quello molto alto, di lì hanno messo antenne e contrantenne che sono telefoniche, no? Poi dove ci sono quelle telefoniche normalmente c'è anche il tetra. E quindi è chiaro che qualche disturbo c'è. Non ho capito il grattacielo, dove è il grattacielo? Allora, per andare, tu vai dai carabinieri, fai la rotatoria e vai verso il Mar Capitol, dai, dove c'è la chiesa, se preferisci, dove c'è la chiesa, in quella via lì c'è un grattacielo, c'è un grattacielo, un palazzo alto che comunque da lì su imbatte parecchio quella zona, non per niente hanno scelta per le celle. E mi dicevano che da quella zona è molto aperta anche rispetto alle zone alte di Sassari, perché evidentemente c'è canaloni, c'è insomma c'è visibilità, e lì hanno messo tutte queste antenne cellulari che veramente ce ne hanno il terrazzo pieno. Ah, ho capito, allora stavo pensando dalla tua parte, tu stai parlando di via Washington, la via dove c'è la chiesa proprio, ho capito, quel palazzone alto, che dove quello c'è una copertura impressionante, ma in rete cellulare lì non c'è nient'altro, non credo. Beh, c'è anche il tetra, dove vedi antenne cellulari, c'è anche il tetra normalmente, perché hanno le varie coperture, se tu ti prendi la briga col coso lì, con 7000 ricevitori, di andare tra i 390 e i 400 ti spaventi, 940, 940, 920, 950, cioè da paura veramente. Poi ci sono quelli piccolini, hanno la stessa forma, se guardi l'analizzatore di spettro, delle broadcasting piccoline, però molto stretto, però sono segnaloni, eh. Oh, un attimino, vi lascio un attimino, mi allontano che è arrivata gente, allora, se ci siete riprendo l'otto, e quindi, vabbè. Sì, sì, ok, Gianfra. Mi scusa Gianfranco, ci sentiamo dopo se coincide, dai, tu buon tutto, vai Gianfranco. Sì, ciao Franco, buona serata, alle prossime. Capito, mentre dalle parti tue tra l'altro c'è anche un po' più su, c'è la Guardia di Finanza, anche loro hanno il loro ponte tetra, e in più le loro antenne per i vari servizi. Sì, e poi ci sono anche i vigili urbani, hanno messo quel tralicetto di 12 metri. Sì, sì, quello è tetra lo stesso, perché anche loro sono nella rete, tutta la rete che copre tutta la città, poi fuori non so come sia, perché fuori il tetra c'ha una portata diciamo molto limitata, proprio a causa della tipologia di modulazione. Praticamente su un canale ci passano quattro subcanali. Sì, sì, molto comprendo, non so che potenze lavorino, ma non credo che lavorino a potenze troppo alte, per cui non lo so sinceramente se è proprio quello che sta creando problemi. Se mi parli delle frequenze militari, diciamo, dell'esercito, quelle sono abbastanza vicine. Ma guarda, forse quelle sono quelle che disturbano di meno, perché per la tipologia di apparati sono progettate proprio per non passarsene le più silenziose possibili, tanto è vero che la gente si meraviglia quando guarda gli apparati, 2 watt, 1 watt, 5 watt, ovviamente poi c'hanno il booster che è separato, come hai visto in tante radio, che magari è dalla porta a 500, 1000 watt, però loro sono le prove, utilizzano quegli apparati, che hanno tutte le frequenze, è vero, però non sono la cosa più disturbante, ecco. Anzi, loro se non li noti è meglio. Sì, naturalmente, quello sì. Poi, vabbè, quello l'avrei notato anche tu, tutto il pezzo sopra la motorizzazione, di lì cellulari, dopo c'è quel distributore a quell'altezza lì, c'è un'attenuazione di cellulari, di lì allucinante, cioè tu stai camminando, ti parte il segnale, c'è un campo elettrico allucinante, tutti i ripetitori di Monte Oro si incrociano, quelli che arrivano da Bade Urbana, di lì, in quel canale lì è una tragedia, le comunicazioni cellulari. Ma guarda, il problema è essenzialmente di lì, ad esempio, di Monte Oro, che ci sono troppe FM sgangherate, tutte, mamma mia, Ma a me è quello che mi meraviglia. Io non so, ci sono i controlli, gli addetti al controllo, perché permettono di utilizzare queste potenze esagerate, soprattutto. E quello che ho visto di questi network nazionali grossi, grossi, senza far nome, sono molto larghi. Cioè la legge dice tu non puoi superare i 75 kg. E l'abbiamo visto l'altro giorno in corso, con l'allenatore di Spettro, usciva la larghezza di banda, era esagerata rispetto a un'altra della RAI. Infatti domani voglio fare delle verifiche e vedere un pochettino, perché stavano uscendo talmente larghi in un modo esagerato. No vabbè, sono controllate anche dalle aerei, in volo dagli aerei, da certi aerei perlomeno, perché ogni tanto tu sentirei quel rumore di aereo smarmittato, no? Quello lì è il P80 della Piaggio, che è dell'ENAV, e quello lì viene a fare radiomisure proprio per vedere, perché l'88-108 è estremamente vicina alla frequenza aeronautica, che tra l'altro sono in AM, quindi ti puoi immaginare se queste vanno a interferire cosa succede. Sì, sì, la seconda armonica cade proprio in pieno a coso, alle frequenze aeronautiche, infatti c'è adesso una frequenza, non mi ricordo quanto era, se era il 95, 94, adesso non mi ricordo, c'è una frequenza, infatti era sempre vuota, nessuno diceva ma come mai, cioè, sei attento, perché se ti esce appena una spuria, un'armonica, ci cade in pieno sulla frequenza aeronautica del ponte che c'è di lì, infatti tutti si tenevano molto lontani da quella seconda armonica, nel senso si spostavano mai una frequenza o prima o dopo, non mi ricordo adesso quanto era, bisognava calcolarla, dai, dimezzare la frequenza del ponte, dell'aviazione, dell'aeronautica, e vedere come cade, perché c'era un'armonica che cadeva esattamente su quella frequenza lì. Sì, purtroppo ha quelle potenze, sono anche molto forti, perché poi vanno in stereo, quindi le occorre ancora più potenza, in modo da avere quella separazione di canale, cioè maggiore la banda occupata, maggiore la potenza, no? Sì, in stereo è micidiale, no? Ne parliamo. Infatti noti, poi non ti sposti appena, poi iniziano ad arrivare disturbi, il fruscio e coso. Infatti il vantaggio di quelle monofoniche, tipo Radio Maria, Radio Radicale, Radio 24, Radio, che cavolo è l'altra, ce ne sono due o tre di queste radio che trasmettono in modo, quelle anche con meno potenza riescono ad andare, sono esenti da disturbi. In stereofonia subito appena ti sposti inizi a creare problemi. È quello che mi meraviglia, che noi non abbiamo in Italia nessuna limitazione di potenza, cioè abbiamo i valori più bassi del mondo per la telefonia, eccetera eccetera, proprio un decimo addirittura di quello che utilizzano nelle altre nazioni vicine confinanti all'Italia, mentre se tu vai in Francia c'è una limitazione per le bloccate, veramente tu trovi che superano i 6 kW, c'è gente che lavora anche con 100, 500, 1000 watt, quelle più potenti della Corsica sono da 6 kW, proprio quelle nazionali, parliamo RTF1, il canale nazionale francese, sono tutti che lavorano con 1 kW, 1 kW 3 massimo. Qua c'è radio RDS, c'ha 50 kW da Monte Oro e 42 da Monte Alvaro, potenza da paura, infatti io dico sì, poi duplicate così a macello. No, in realtà quelle telefoniche sono, non è un discorso di potenza, ecco. Attenzione, perché io c'ho un collega che ci ha lavorato per fare i calcoli di copertura, faccio i calcoli di copertura, ed è estremamente importante ai fini del funzionamento delle celle di avere la continuità praticamente del segnale, e quindi se tu dai più potenza a una frazione cosa succede? E siccome le celle sono ravvicinate si disturbano una con l'altra, e quindi devono avere, diciamo, quella copertura giusta e quella potenza giusta per non interferire con le altre celle, né quelle loro né quelle anche degli altri. Quindi è un lavoro, devi vedere, sono dei programmi costosissimi da fare testa. Se poi ci aggiungi che l'Italia in generale dal punto di vista radio è una delle nazioni più complicate, perché abbiamo colline, salite, discese, insomma c'è di tutto. Gli Stati Uniti quando parli di pianura ti parlano di 400-500 km di pianura, qua se parli di pianura sono qualche ettaro. Sì, si è detto bene, poi devono stare attenti a non interferirsi le stazioni, infatti ce ne sono tante, ma la cosa più brutta, adesso stanno cambiando le politiche, perché allo stesso ponte ripetitore si subaffittano Iliad, Telecom, Vodafone, eccetera, eccetera. Prima c'erano, se tu vai sopra Scaligio qua ci sono tre ponti ripetitori di tre gestori diversi, non era più comodo lasciarne uno e utilizzavano tutti e tre o tutti e quattro. Adesso man mano la politica sta cambiando e non danno più le concessioni come prima, ma perché era una giungla, prima ognuno si svegliava, io metto un ripetitore, buonanotte, e succedevano un sacco di problemi, anche tra di loro si interferivano. Se tu vai a Pratamona, sopra Pratamona, la collinetta di Pratamona, tu sei sotto a poche centinaia di metri, diciamo 500 metri, non piglia nulla, uno si interferisce con l'altro, ti sposti di 10 centimetri e prendi. Sì, ma è così, perché cioè, ci sono colline e collinette, non è come la pianura padana, ad esempio, che di lì è facile fare collegamenti radio. Qua è tutto un macello, tant'è vero che c'era stata anche una polemica da parte dei vigili del fuoco volontari, credo, del Trentino Alto Adige, proprio sul Tetra, perché in molte zone non è affidabile, perché è chiaro che quando tu hai un territorio con tante salite e su una frequenza UHF, soprattutto perché il Tetra lavora solo in UHF, e di lì è la cosa insomma, complicata, tant'è vero che il CNVF è passato sul DMR, che c'è una portata molto superiore al Tetra, e poi sia apparati sia punti radio costano molto di meno. Sì, infatti ormai c'è una saturazione tra civili, militare, aeronautica, eccetera, eccetera, è una giungla di cose. E poi di lì a chi c'è la più grossa, le radio private, addirittura c'è stata una contestazione anni fa, Radio DJ dall'Imbara disturbava i canali della Corsica, e c'è stata una cosa, interrogazione internazionale, nel senso, non dico a livello di cose, di ambasciate, cose del genere, niente, diciamo che in Italia hanno fatto ruotare le antenne, la direzionale delle antenne, siccome questa radio bombardava da tutte le parti, a 87, 88 e 6, adesso mi ricordo che frequenza, 88 e 9 forse radio era, 88 e 7 scusa, radio come si chiama, DJ dall'Imbara, con una potenza esagerata, disturbava i canali francesi, infatti quelli per vincoli nazionali non devono superare pari ai 6 kW, quelli che uscivano con 150, vabbè non 150 ma un'ottantina di kW, e ambientavano tutto, siccome era molto in alto all'Imbara. Infatti alla fine c'è stata una cosa, una discussione con lo Stato italiano, hanno consigliato a DJ di orientare le antenne in altre direzioni, in modo da non interferire, tanto non loro lo facevano per farci ascoltare, infatti io la Iaccio, c'era l'unica stazione italiana, a parte la RAI che la ripetevano ad Aia, l'unica stazione italiana che entrava era la Coso, dall'Imbara, Radio DJ, fanno tanti anni fa, adesso poi non so come è andata a finire, se hanno ridotto le direzionalità delle antenne. Comunque poi anche queste installazioni che così sono, non lo so fino a che punto siano economiche, perché nel momento in cui hanno iniziato a tagliare diciamo la pubblicità, molte vivacchiano. Ma tu lo sai quante televisioni hanno chiuso in Sardegna? Mi pare 8 televisioni private, da TeleG, Antenna 1, quelle di Oristano, alcune del Campidano, hanno chiuso 8 televisioni, e prima o poi chiuderanno molte radio, diciamo la maggior parte hanno già chiuso le radio, perché è incomprensibile tenere il noleggio del coso, della frequenza digitale, chiedono 70.000 euro all'anno, cioè l'unica che è rimasta è Sardegna 1 e Videolina, mi pare 2 o 3 altre linee regionali, tutte le altre hanno chiuso, per dire Urbia TV che è una, c'ha più di 40 anni di età, TeleG, Antenna 1, la maggior parte sono passati in rete, diciamo, su internet, perché cioè non è possibile, di cosa viviamo noi? Non ce l'hanno come fatturato, questo devono pagare un canone di 70.000 euro per ripetere il segnale. Sì, purtroppo è così. Quando vivono dalla pubblicità, è ovvio che sono queste cose. Poi le frequenze satellitari lo stesso sono costosissime, a parte la latenza che poi creano. Però anche di lì stesse cose. È un ambiente un po' complicato, ecco. Guarda, i satelliti in proporzione costano molto di meno che ritrasmettono digitale terrestre, da quando è entrato in digitale. Prima pagava, parliamo quando era ancora in analogico, coso, Sardegna 1 è stata la prima televisione nazionale, non regionale, la prima televisione nazionale a trasmettere via satellite, e poi sono seguite dalle altre, parliamo di quelle regionali. La prima televisione italiana regionale che ha trasmesso il satellite è stata Sardegna 1, e poi hanno seguito tutte le altre, Telenor, Norma, Rete Capri, Albigliolina, eccetera. E costava allora 110 milioni, stiamo parlando prima dell'euro, anni 90, 97, 98. E Sardegna 1 non so se ci sia ancora, forse fa parte del pacchetto del mux di Videolina, perché Videolina ha acquistato Sardegna 1 e Videolina ha diversi canali in satellite, però dallo stesso trasponder ti trasmettono 20 canali, per cui non è come prima che c'avevi un canale dedicato e costava, occupava una banda enorme. Non so se ci sia qualcuno, perché lo squelce è un pochettino alto, non vorrei che magari ci fosse qualcuno chiamando. Facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare avanti qua, e benvenuto. Ciao amico, ben sentito, ti ascolto non benissimo, il segnale è quasi 9, però ti porti un po' di QRM appresso. In compagnia mia e di Gianfranco, vediamo se ti ha copiato. Gianfranco per Mirko. Sì, l'ho ascoltato, ma è passato lo squelch fortunatamente. E niente, lo ascolto, non so se lui mi ascolta, ecco, a te Mirko, buonasera. Mirko, l'hai ascoltato a Gianfranco? Mirko, devo dire una cosa, rispetto all'altro giorno la radio varia un po' più squillante, però di segnale sei un po' più basso, non arrivi a 9, l'altro giorno lo superavi quando hai sistemato l'antenna. Gianfra, lui ti ascolta, però, cioè scusa, viceversa, lui non ti ascolta, Gianfra, tu lo ascolti. Sì, perché ci sono stazioni che curano la trasmissione ma non la ricezione. No, io l'ascolto, basso ma l'ascolto. Mi confermi Alghero? Sì, Roberto. Sì, Alghero. Ah, ok. Sì, poi dipende dalla zona anche l'Alghero. Sì, ma non so se ha sistemato l'antenna. L'hai messa questa Game Master, Mirko? Ma un aiutino non riesce a darlo, perché c'hai un po' di QRM, la radio non è 5, ti do 3 di radio, perché c'ho il QRM molto molto alto oggi, ti tiro fuori con le pinze, arrivi quasi 9, però la radio è 3. Cos'hai fatto? Vitamine gli hai dato? Sì, il microfono, la radio adesso è salita un pochettino, no, dico, se c'è modo di dargli qualche vitamina in più. Comunque adesso è migliorato tantissimo, la radio adesso è 4, ha migliorato perché è molto più forte e bella squillante. Dai, di nuovo a te Gianfranco. Sì, non so se adesso mi sente un pochino meglio, ma sai qual è il problema? Che molti hanno queste radio vecchie, non sono più sensibili, poi magari c'è anche una posizione sfavorevole e quindi c'è questo problema. Mirko, adesso mi senti? Già fa qua, sei arrivato a 9.40, infatti chi è questo? Io ti dico sempre che comunque potenze basse, lo tengo al minimo perché prima c'è anche il ricevitore, c'è l'altro, l'apparato acceso in HF, ed è tutta una baranana, capito? Quindi non voglio disturbarmi perché sempre RF, perché a volte sono segnali molto molto molto bassi, e quindi è meglio stare sempre in un range basso. Ma questo non è il presidente? Sì, è sempre il presidente. E c'è un'escursione da 9.30, a parte da quasi 9.30 a 9.40, cavolo. Microfono normale, non è toccato niente, come mamma l'ha fatto. E il, come si chiama? Tra l'altro il microfono non è al massimo, da quello che vedo, perché l'ho regolato un po' più su. in modo da non dare fastidio quando trasmette magari qualche dato, qualche cosa in diretta dal PC. E qua è tutta accurata la schermatura, comunque insomma tutte quelle cose lì, se no è difficile collegare su un'unica uscita a tanti apparati. Guarda, considerando la distanza, che tu sei più lontano di tutti, senza considerare i paesi, nessuno ha un segnale così forte come tu. 9.40 non arriva nessuno dalle mie parti, perché quelli che arrivano oltre sono vicini, tipo Fabrizio, tipo Antonello Pompugno e basta. 9.40 da nessuna parte qua, di Sassari nessuno c'ha questo segnale. E tu sei molto lontano da me, sarei almeno 5 km in linea d'aria, no? Sì, adesso ho riabbassato perché non mi interessa, diciamo, mostrare i muscoli, però tu figurati che il minimo sindacale, volendo, posso centuplicare, credo, la potenza nominale dell'apparecchio, quindi non ci sarebbero problemi comunque a farmi ascoltare anche al Gerund. Però proprio non mi piace, non l'ho mai fatto, ma anche sulle frequenze alte, ad esempio io prendo sempre come riferimento le UHF, che sono le più difficili, e in ogni caso sempre in digitale, perché è la modulazione che mi interessa. Già col gommino copro la maggioranza della città, senza gommino, con l'antenna esterna c'entro anche nelle cantine, ho provato, quindi è sempre con potenze sotto il limite, tipo 5-10 watt. Poi ho costruito anche una direttiva, una per UHF, figurati che ha dato una sussa a questa antenna, all'antenna che è sul traliccio, ma che so, l'Imbara S7 con quella S9, 9 passa. Vediamo Mirko, ci c'è ancora? Non si è uscito di radio, il segnale ha migliorato, però la radio non ce n'è. Adesso sì, hai superato anche il 9 adesso, radio va bene, ma il 757 parli? E questo che cos'è? Perché ha migliorato il segnale, sei 9.5, adesso radio 5. No, adesso ti ascolto benissimo. E vai Gianfra. Sì, vabbè, io mi devo allontanare perché devo andare a cena. Quindi ci sentiamo dopo se ci si. Saluto anche Mirko se mi sta ascoltando ancora, buona serata, alle prossime, a più tardi Roberto, sempre se ci sei. Io devo uscire alle 7:30, non so appena rientro, perché sono da mia sorella, ci mangiamo una pizza di lì tutti insieme, se no eventualmente ci sentiamo domani, tanto credo che domani rimango sicuramente tutto il giorno a casa, visto che piove, non ho niente di importante da fare, magari sentiamo domani mattina se non coincide stasera. Comunque ti auguro una buona serata, buon proseguo, buona cena, buon tutto. Vai Mirko per Gianfranco. Ok, ciao Mirko, buona serata anche a te. Domani sono nella tua zona, tra l'altro vicinissima, solo dall'altra parte, verso la caserma che sai. Ci faccio una puntatina. Ciao! Magari dammi uno squillo, basta che non me ne viene alle 7:30, che domani devo recuperare, sono dormendo malissimo. No, sempre presto, se ci riesco addirittura anche prima dalle 7. Allora mi sa che te ne vai da solo, Gianfra. Se passi più tardi sì, no, voglio cercare di dormire, poi sto dormendo male, ti ripeto. Io recupero questi giorni qua di sonno, che poi non recupero niente, perché dico mi devo alzare più tardi, invece me ne sveglio anche prima, specie di invece, anche se rimango magari coricato nel letto. Comunque dai, vediamo eventualmente domani. Ci sentiamo di nuovo, ciao Gianfranco, dimmi quanto è il mic. Mico, una domanda, questo apparato c'ha l'indicatore di segnale a LED o a lancello? E se vuoi darmi un controllo per curiosità, per vedere, e la radio è che è importante più del segnale, è chiara o mi porta presso degli disturbi? Ok, comunque se vuoi un consiglio, Mirko, non toccare niente, questa è la radio perfetta per i miei gusti, perché sei andato benissimo il segnale, sei 9.5 e la radio 5, pulita, ti ascoltano tutti qua, almeno credo che ti ascoltano tutti, io ti ascolto perfettamente, per cui tieniti da parte questo, mettici un pezzo di scotch, blocca tutto e tieni questa come riferimento. insomma, perché quante altre persone dovendo? Ah, quindi stai tirando il culo, quindi si abbassa anche la tensione. No, io ho sempre, a parte nello strumento ci sono gli amperometri e voltmetri, ce l'ho separatamente, un multimetro digitale da laboratorio mi dà il secondo decimale, manco se gli do 100-200 watt si siede con l'alimentatore, perché è proprio micidiale, c'ha una resistenza, una sovradimensionamento costruttivo da paura. Ma è transito la caffettiera, però quanto darà? Qualche centinaio, 150 ci arrivo. E poi sono tutte sparate queste potenze, se ti dicono 100 tu calcola la metà e non sbagli, 50-50, se ti dicono 200-100 sono potenze massime di picco eccetera eccetera, poi se li tiri il collo magari ci arrivano dandogli un sovrappilottaggio, però lo fai scaldare troppo, iniziano a ronzare, vanno in saturazione ai finali e fai danni e crea un sacco di armoniche, spurie eccetera. È meglio tenerti un po' più basso, magari anziché dargliene 80 gliene fare 50 e vedi che l'apparato va molto meglio. E c'è quello, guardi, l'altro rispetto, ti rendi conto la mondezza che tirano fuori Puglia, perché non hanno neanche filtro in uscito, è tutto un giocato. Io infatti questi ce ne sono pochi di apparati che abbiamo una discreta resa di questi amplificatori di questo genere qua, diciamo quella 27, li tocchi sulla punta delle dita, uno lo fa la Magnum e l'altro la fa la Bias, tutti gli altri mondezza parlano di RM, di cosa so, circuiti copiati. Io ho visto un servizio, un documentario fatto da Frignani, quello che costruisce i migliori accordatori di antenna, troppo di amplificatori, li fanno anche in America, nominati marchiati a Meriton eccetera eccetera, è un grande ingegnere e ha fatto dei confronti con di questi apparecchi, molti glieli hanno copiati, certi ZG sono copiati e copiati anche male, degli RM sono copiati da certi circuiti della Magnum, la Bias invece ha detto c'è un ingegnere veramente capace, fa dei buoni prodotti con dei circuiti loro di priorità, diciamo proprietari, non copiano niente, perché mi ha fatto vedere un video dove c'era proprio un circuito copiato identico, anche negli Stati Uniti l'hanno copiato, infatti gli ho detto ma come mai, ho visto un merito, ce l'hanno copiato, e poi alla fine si sono denunciati e si sono messi d'accordo e li fa costruire su licenza. Ma i cinesi fanno, se tu vedi, non so se li conosci, ma anche i prestigiosi americani di amplificatori che costano decine e decine di migliaia di euro, parliamo di Mark Levinson, Macintosh non ancora non li ho visti, però superiori ai Macintosh, i Krell che sono il top, il coso, un altro marco, come si chiamava, Fam Napoli, non mi viene il nome, comunque, li fanno identici, marchiati con lo stesso nome e cognome, usano la componentistica sicuramente di scarsa qualità, perché li vendono, se quelli costano 30.000, loro li vendono 2-3.000 euro, e le casse stanno facendo le BMW inglesi, che sono delle ultime eccellenti casse, se te le fanno identiche, proprio sputate, poi ti metto male un altoparlante di prestazioni inferiori, però tu anziché pagare la 15.000 euro lo paghi 1.800, 1.300, una cassa simile come, parliamo come forma e disegno identica, cacchio, che prima o poi soppianteranno. Guarda i telefonini, prima tutti ridicolizzavano i cinesi, guardate i telefonini che fanno adesso e sono il top nel mondo. Allora la Huawei è il secondo produttore mondiale di telefonia e ha superato la Apple, ancora la Samsung di poco e prima, ma poco, perché loro se vogliono possono diventare prima, mettono la produzione appena e li superano. Poi c'è l'altra, lo Xiaomi, lo stesso sta salendo ai massimi livelli, stanno bruciando il mercato e sono degli ultimi prodotti, hanno un rapporto qualità-prezzo unico, perché tu con quei soldi non compri niente, con quelle prestazioni niente di niente. Adesso stanno iniziando anche a fare gli apparati radioamatoriali, li stanno facendo a prezzi molto molto favorevoli e ho visto qualche radioamatore ne ha parlato bene, dice dopo quel costo con tutte quelle funzioni non c'è niente sul mercato, assolutamente non è paragonabile male a noi a ESO, a Nikon o anche a tipo di gamma, però se uno vuole un apparecchio economico entro 300-400-500 euro con le prestazioni non vicine a quelle, però con le funzioni parliamo che va in digitale, che c'ha esatto rispetto, display, touch screen, con tutto, tu le paghi anziché pagare 3.000-4.000 euro le paghi 600-700 euro, ma ormai sono tutte così, ormai sono tutti SMD, per cui la reparazione o c'hai la cosa ufficiale, come se tu rompi uno Yaesu di nuova ragionato né un Kenwood o un Nikon, mica lo vediamo un laboratorio normale, se devi cambiare qualche componente, assolutamente, sono ben pochi quelli che sono in grado di repararli, non perché non lo sanno fare, dicono sì, il componente è questo processore, e come lo saldi tu? Ci vuole attrezzatura che costano migliaia e migliaia di euro, o immediatamente la scheda, se no non sai da che parte andare, e sono pochi a Sassari. Hai fallito la cosa, come si chiamava, l'importatore della ICOM in Italia, la Marcucci, perché non riusciva più a sopperire il mercato, perché i macchinari per riparare quelle cose lì costavano centinaia di migliaia di euro, cioè se ti devi mettere tutta la linea per fare tutta l'operazione di lavoro. Non mancano più soldi, alla fine il mercato era saturo, perché non è che tutti si stanno comprando un coso, uno IAESO o un ICOM da 5.000 euro, ogni tanto ne venderanno qualche decina all'anno e alla fine dice cosa cacchio, ci riempiamo di apparati e non riusciamo poi a vendere. Devo dire una cosa, io sono stato stupito, ho visto le patenti che hanno rilasciato quest'anno e c'è un numero progressivo, la patente mia adesso non mi ricordo quanto sia, c'è scritto mi sembra 14.300/2021, per cui teoricamente nel 2021 hanno rilasciato 14.000 patenti e non sono pochi. Andiamo e andiamo, ciao. Aspetta, saluta Luca perché adesso devo andare via, io purtroppo mi devo lasciare. Ciao Luca, mi c'è anche Mirko D'Alghero, lo senti Mirko Luca? No, non lo sento Roba. Per niente. Luca, qua la centrale di Pisa, no? Ah, la Santa Maria, è giusto il segnale, non l'ho visto. No, no, qua arriva benissimo. 95 Radio 5. Comunque vi saluto a tutti e due, dai. E stasera non credo di rientrare, ma domani mattina sicuramente, tanto non ho niente da fare. Saluto di nuovo a Luca, appena entrato. Buon tutto e saluto anche amico D'Alghero. Ciao amico, fatti sentire più spesso, è sempre un piacere. Curati da parte mia e saluto anche gli eventuali ascoltoni sul canale 10. Ciao ciao. Ah Roberto, aspettavo le foto, maledetto, ciao ciao, buonasera. Luca, lo sai perché non l'ho fatto? Ce l'ho in un altro locale, è tutto chiuso, un bel giorno, ma già appena giovedì se ci riesco te lo mando, non ho avuto tempo, già ti racconterò, qualche problemino c'è stato, dai, ero impegnato in altre cose più importanti, ma non mi sono dimenticato. Ah ok, vabbè, dai, ciao Roba, ciao tuo amico, lo sento, ciao. Mico, saluti da Luca, non mi sentite, uno nell'altro, va bene, dai. Ciao a tutti e due.